Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, visto che siete voi, come sempre, a lunedì a scegliere gli argomenti da trattare, volete Gesù o Barabba? Volete Mourinho o Kakà? Se dipendesse da me, io parlerei più volentieri di Jankovic, di quel fantastico colpo di tacco in corsa di ieri che ha proiettato il Genoa al quarto posto. E quindi, se il campionato fosse finito col girone d'andata, come ieri è finito per l'appunto il solo girone d'andata, il Genoa sarebbe in Champions League e avrebbe replicato il piazzamento di Bagnoli di tanti anni fa, anche se il quarto posto di allora valeva soltanto l'UEFA, perché c'era ancora la Coppa dei Campioni e non l'annacquata Champions League. E se invece non vi piace il gol di tacco di Jankovic, possiamo sempre parlare della straordinaria rovesciata di Julio Battista all'ultimo minuto, che ha dato il segnale di come la Roma insomma possa ancora levarsi più di una soddisfazione quest'anno, a parer mio, e di come sarà invece molto ma molto difficile per il Torino riuscire a centrare la salvezza. Oppure potremmo parlare, per una volta, anziché dei demeriti della prima della classe, dei meriti di chi la strapazza a quella maniera, di chi in 33 minuti gli rifila 3 gol, altri avrebbe potuto farne, ovviamente con delle responsabilità ben precise da parte di chi è più forte e si fa travolgere a quella maniera, ma anche con dei meriti incontestabili ed elevatissimi per chi riesce in un'impresa di questo genere. Alla fine l'argomento, come sempre, gli argomenti come sempre sarete voi a sceglierli, per esempio aggiungendo ancora degli atteggiamenti inammissibili in professionisti come quelli che hanno avuto i due napoletani ieri, Hamsik prima facendosi espellere, Dennis poi contestando platealmente una sostituzione decisa dal suo allenatore in capo a un'ora di gioco in cui il suddetto Dennis la palla l'aveva vista sì e no a tratti. Possiamo discutere se non abbia tardato un po' tanto Ranieri, riserva olimpico, a inserire Giovinco a scelta tra Del Piero e Nedved. Forse ci stava anche De Ceglie, visto che la linea verde bianconera sta pagando, e forse tutte e due ci stavano un po' prima al posto per l'appunto di Nedved e Del Piero, ma sono tutti motivi di discussione. Una notizia che arriva dall'Inghilterra, per ora è l'unica a proposito dell'affare, dell'affair, chiamatelo come volete, è che il Manchester City ha acquistato anche Bellamy, giocatore Bellamy arriva dal Newcastle, forse, non lo so. Arriva dal West Ham, domando scusa, arriva dal West Ham di Zola, e comunque nel dubbio il City si è cautelato spendendo 15 milioni di euro per Bellamy, che è un signor giocatore, ovviamente non è Kakà, ma è anche potrebbe essere anche una pedina di consolazione nel caso in cui l'affare Kakà, che pare non ancora concluso, dovesse prima o poi saltare. In attesa dei vostri interventi in diretta, come sempre all'800 24 00 24, uno dei tanti commenti di Mourinho ieri a fine partita, direi quello sulla disamina complessiva della partita. Tante volte, o quasi sempre, mi piace quando la mia squadra non fa un risultato positivo, mi piace parlare del merito di un nostro avversario. L'ho fatto praticamente sempre. Oggi abbiamo giocato così male in primo tempo che preferisco dire che questo risultato lo abbiamo fatto noi. Lo abbiamo fatto noi in modo negativo, perché abbiamo avuto 30-40 minuti senza commentare. Penso che oggi è la partita dove io devo stare zitto e tutti voi, stampa sportiva, possono utilizzare tutti gli aggettivi che vogliono utilizzare e che io devo ovviamente accettare di una partita così negativa della mia squadra. Un grande comunicatore, non c'è nessun dubbio da questo punto di vista. Poi sul valore del tecnico credo che ci si possa aggiornare un po' alla volta, mi pare che le valutazioni si stanno aggiornando, o perlomeno in questa fase della stagione. Non c'è dubbio, vi dicevo, che l'Atalanta di ieri aveva giocato una partita assolutamente strepitosa. Era già successo a Del Neri di strapazzare l'Inter alla guida del Palermo non molte stagioni fa, e allora era l'Inter di Mancini. Sentiamo come la spiega, come a mente fredda racconta questa impresa. Io penso ai miei giocatori più che a me stesso. Penso che l'Atalanta abbia vinto perché in campo ha buttato qualcosa di fantastico e poi risultato ha dato ragione. È chiaro, torno a ripetere, che per vincere queste partite bisogna comunque fare la partita perfetta, sfruttare tutto quello che gli altri concedono e cercare di concedere poco agli avversari. Il secondo è stato un gol su autogol, diciamo così, su deviazione, quindi ci può stare come concetto. Però gli altri gol sono tutti da ottima fattura come lavoro. Diciamo che noi la chiave della partita in se stesso è non aver dato area di rigore alle grandi punte che hanno loro. Ed è chiaro che in quel contesto lì siamo stati molto bravi. E devo dire che abbiamo sfruttato benissimo tutto. E tutto è andato per il Confevere, ma poteva andare bene anche col Milan, per esempio. E diciamo che oggi mi ha raccolto tutto in pieno, trovando probabilmente la giornata giusta. Scrive Piero, non ne sono tifoso, ma mi pare che anche il Cagliari di Allegri stia facendo benone. Benone sì, benissimo. Lei pensi, Piero, che il Cagliari, proprio il Cagliari di Allegri, è la squadra che rispetto allo scorso anno ha più migliorato il suo rendimento nel girone d'andata. L'aveva chiuso a 10 punti un anno fa, adesso ne ha 25, quindi con questo incredibile più 15 è nettamente al comando della classifica, che è molto virtuale ovviamente, ma è molto interessante anche, delle squadre che hanno fatto meglio e hanno fatto peggio rispetto a un anno fa. Il Cagliari ha più 15, la Lazio ha più 11, il Genoa ha più 10, Milan e Napoli più 9, poi seguono numeri meno significativi, la Juventus ha più 3 per esempio, e poi arriviamo a quelle invece che hanno un saldo negativo, le più significative sono certamente Inter meno 6, Udinese meno 9, Roma meno 12, nonostante questa lunga rimonta della Roma che l'ha riportata ormai ad avere il quarto posto nel mirino, che sarebbe poi l'obiettivo minimo stagionale della società già in partenza. C'è il primo ascoltatore di oggi, ha chiamato Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io mi sento un po' una voce fuori dal coro, sono un vecchio abbonato al Milan e io a San Siro mi sembra di essere una mostra bianca, non avendo una grandissima simpatia per la dirigenza del Milan. Però mi sembra che in questo caso anche il signor Kakà non è che si stia comportando in una maniera, direi, cristallina. In 6 anni gli hanno rifatto 5 volte il contratto, quasi sempre raddoppiandoglielo. Abbiamo perfino arruolato il fratello Broccone, perché sennò magari aveva un po' di saudaggi. Ha fatto, da quando è qua, 3 finali di Champions League, 2 le ha vinte. Mi sembra che tutto sommato, se questo signore mette anche in preventivo di andare a giocare a Manchester e di rinunciare magari anche alla visibilità per dei soldi, insomma, va bene così. Mi sembra che anche dall'altra parte la dirigenza del Milan non è che possa fare chissà che cosa. Volevo sapere il suo illuminato parere. Non è particolarmente illuminato per la ragione che io non riesco ad appassionarmi a questo genere di cose, perché le trovo comunque eccessive in un senso o nell'altro. Anch'io comunque sono più vicino certamente ai tifosi per ragioni sentimentali e alla società per ragioni di sano realismo di quanto non lo sia Kakà. Mi pare, le cito una frase tra le tante che ho letto e che sono state scritte o si sono dette in questi giorni, una frase che trovo particolarmente azzeccata e per combinazione del vecchio saggio Candido Cannavò. Uno dei massimi campioni dell'epoca, scrive stamani Cannavò sulla Gazzetta, abbandona la metropoli del Milan, lascia il club che ha vinto più di tutti nel mondo per trasferirsi in una modesta squadra di Manchester che almeno per altri 20 anni sarà gregaria della prima, e cioè lo United. Non è il colpo che ti cambia la vita. Kakà è già ricchissimo, e qui arriviamo alla sostanza, pare mio. Non credo che ci sia differenza esistenziale nel vivere con 10 o 15 milioni di euro l'anno. Ne hai abbastanza per i desideri illimitati di 10 generazioni. Eppure, se Kakà andrà al City, l'unico vincitore sarà il bieco, inutile e irresistibile denaro. Cioè, io trovo che questa sia la riflessione da fare. Cioè, questi gli danno 15, perfetto. Pare che il padre sia avido, perfetto. Ma con 8 milioni di euro l'anno, io dico che non solo si vive bene quell'anno, ma che se tu ragionevolmente hai 10-12 anni, non la faccio nemmeno troppo lunga, non arrivo a quelli che poi per fienare e per mietere ancora ingaggi si trascinano più o meno penosamente in campo anche vicino ai 40 anni. Parliamo di chi ha una carriera di 10-15 anni, ma se moltiplichiamo 8 milioni di euro per 10 o per 15, a che somma arriviamo? E giustamente fa osservare Carnavò, per quante generazioni questa famiglia ha posto? Per cui anche il padre, io capisco che un padre povero voglia, no, voglia vedere sistemate le creature senza che poi possano avere dei patemi nel futuro. 15 per 8 o 15 per 15 dovrebbero spiegare qual è la differenza esistenziale, appunto, per le generazioni a venire, non certamente per quella presente. Matteo da Perugia, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. Salve. Innanzitutto mi fa piacere vedere come le squadre, le tre squadre allenate dai pupilli di Galeone abbiano vinto tutte questo fine settimana, il Siena, il Cagliari e anche il Genoa. Io però chiamavo per sentire una sua opinione sul gol più bello di questa giornata di campionato. Io sono, diciamo, combattuto tra tre, che sono quello di Pato sabato sera, che secondo me è stato bellissimo, un collo riuscito a tenerlo raso terra, poi il primo di quello di Floccari ieri, bellissimo come si è girato e ha colpito, e quello di Battista, e vorrei sapere una sua opinione tra questi tre o tra quelli in generale segnati ieri. Grazie, arrivederci. Buongiorno Matteo, io la deludo e voto Jankovic. Voto quello del Genoa perché ha un coefficiente di difficoltà, a parer mio, più alto ancora, nel senso che il riflesso che gli serve per quell'esecuzione è fulmineo. Giulio Battista fa un capolavoro, ma ha l'idea prima e poi ha il tempo di prepararselo. Che non vuol dire che non sia un gol strepitoso, intendiamoci, ma vuol dire secondo me che quello di Jankovic ha un coefficiente di difficoltà superiore, perché oltretutto la palla di tacco lui la colpisce in maniera perfetta e secchissima, quindi oltre all'intuizione in una frazione di secondo di fare una cosa, la fa anche al meglio, la realizza al meglio in quell'istante, e quindi io voterei Jankovic. Poi andrei con Giulio Battista, bellissimi anche i gol di Pato e di Floccari, ma insomma già con un coefficiente di difficoltà inferiore. Floccari è molto bravo a girarsi, a lasciar secco Cordoba, ma è anche vero che l'assist gli arriva da Maxwell, e quindi il difensore centrale, cioè Cordoba, un attimo di smarrimento ce l'ha, visto che normalmente un difensore rinvia verso l'esterno, non in mezzo all'area a fare un assist. È veramente un intervento incomprensibile quello di Maxwell, ha buttato la croce su Cordoba, che certamente poi da quell'errore a quell'errore ne ha sommati altri, forse perché è andato insieme, ma trovo che dei due errori quello incomprensibile sia quello di Maxwell, non quello di Cordoba dopo. E Pato fa una magnifica cosa in velocità, alla sua maniera, calciando poi benissimo, e credo che di Pato di queste cose ne vedremo ancora tante, come secondo me ne vedremo tante di Floccari, che è un grande centravanti. Siamo già al primo intervallo di giornata, nel frattempo giusto una dichiarazione di Lippi, che è arrivato a Milano per l'incontro che c'è oggi tra capitani, giocatori, arbitri, eccetera. Io so, non so se il Milan vacilli di fronte a un'offerta del genere, ha detto Lippi, lui ha l'impressione che alla fine Kakà resterà al Milan. Questo è il parere del commissario tecnico. Sono tantissimi gli ascoltatori, magari dopo cerchiamo di stringere un pochino i vostri interventi e anche le mie risposte per dare il più spazio possibile. Se lei fosse al posto di Kakà, che cosa farebbe e perché? Domanda Enzo da Prato. Beh, faccio un po' di fatica alla mia veneranda a immedesimarmi nei panni di un ragazzo di 26 anni, oltre che di un fuoriclasse, ma non avrei, all'età mia, non so allora, ma credo anche allora che non avrei avuto dubbi. Sarei rimasto al Milan, ringraziando con molta signorilità il Manchester City, e se proprio questa offerta mi avesse fatto venire degli uzzoli, aspetterei che venisse il tempo di andare a giocare nel Real Madrid o nell'altra squadra di Manchester o nel Barcellona, in un posto adeguato al mio valore, cioè al valore di Kakà, non al Manchester City soltanto per quattrini, insomma. Oppure direi al Manchester City di ripassare, il giorno che avessero allestito nel frattempo una squadra davvero competitiva, una squadra che possa lottare per i vertici, interpretandomi me Kakà come ciliegina e non come inizio della torta, perché mi sembra profondamente sbagliato anche questo. Ma non si può pretendere però che gli sceicchi sappiano che una squadra va costruita dalle fondamenta e non dal tetto, oppure non dalla statua nel giardino, insomma, forse ancora di più. Vedo un numero impressionante di ascoltatori già collegati. Comincerei dalla linea, chiedo istruzioni proprio dalla 2. Dalla 2 c'è Roberto dalla provincia d'Alessandria. Buongiorno. Buongiorno, grazie per farmi intervenire. Io appunto ero completamente d'accordo, mi avete un po' anticipato dicendo innanzitutto anch'io saprei cosa fare, se fossi in Kakà resterei al Milan. Ma il punto secondo me, signor Garanzini, è questo, che sono queste grosse società che ci vogliono far credere che è immorale rifiutare queste offerte. Non è immorale per niente, perché basta dire no e andare avanti così, ma questi soldi, questo denaro, questo business è sempre più importante, anzi direi che è la cosa più importante. E proprio ieri sera al bar dello sport dove mi ritrovo io, nessuno parlava del colpo di tacco di Jankovic, piuttosto che, non so, della ritrovata vena realizzativa di Divaio, piuttosto che un giocatore come Brighi che si è espresso. Cioè, i valori, l'amore per il calcio, prometto che io sono milanista, per cui non lo dico contro, però queste grandi società a livello europeo, a livello nazionale, lo stanno un po' distruggendo, a mio parere, il calcio. Beh, tanto più il fatto che la Serie B, prego? Sì, sì, certo. Ah, no, prego. No, dicevo, concludo. Testimonia il fatto che la Serie B è sempre meno seguita. E invece per me è sempre stato un campionato molto appassionante, perché faceva emergere talenti sia come giocatori, soprattutto. Certo, Roberto, avevamo detto di essere un pochino sintetici. Il suo concetto è chiarissimo. Sono d'accordo con lei. Le grandi società, quando poi arrivano gli sceicchi, non fanno che guastare ulteriormente le cose. Come d'altra parte non era mica lo sceicco Abramovic, non è che non ha spaccato il calcio, no, in Premier League, e adesso probabilmente se ne sta per andare, ma è ovvio, perché i presidenti di Ventura questo sono, no, alla lunga, e del bene al calcio non possono farne. Al calcio come sistema, farlo del bene a quelli che si trovano in traiettoria in quel momento e che riescono a portarsi a casa i loro soldi, fatti poi chissà come, se parliamo di Abramovic e di quel ramo, non saprei gli sceicchi. Pierpaolo da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti alla trasmissione. La mia era una richiesta un po' strana, volevo chiedere e sapere la sua opinione riguardo a Doni, nel senso, perfetto, bravissimo giocatore, per l'amor di Dio, perfetto. Però vorrei che la domenica facesse come appunto domenica scorsa ha fatto, e tralasciando quelle sceneggiate che ogni tanto fa, tipo, non so, contro la Juventus, nel caso di errori o sviste arbitrali più o meno accettati. E naturalmente complimenti a Floccoli. Buona giornata, ascolto per radio. Ma non lo so, cioè il carattere di Doni non è mai stato questo granché, insomma, è sempre stato un po' a rischio, no? È un giocatore che si fa ammonire spesso, un giocatore che non sopporta molto le decisioni arbitrali avverse, insomma è un giocatore con un caratterino. Però ragazzi, alla sua età, giocare come ancora sta giocando, con questa intelligenza, con e senza palla, beh, io non ne ho visti molti, sinceramente. Come intelligenza nel gioco, poi non appena il gioco magari si fa duro, come dicono, ma non è quello il problema. Non appena le cose non vanno come si deve, certi atteggiamenti sono indubbiamente discutibili da sempre. Però ragazzi, che giocatore ancora alla sua età quando sta bene. Ancora la provincia di Bergamo. Francesco, buongiorno. Sì, sono Francesco, interista, e volevo parlare un po' della partita di ieri, non quanto riguarda la sconfitta, perché la sconfitta ci può stare anche, ma per il gioco che ha espresso l'Inter. Secondo me Mourinho è più bravo, sarà più bravo di Mancini, ma Mancini ha vinto qualcosa per la svolta che ha dato Mihajlovic, facendo unire la squadra, facendo gruppo, fatti le grigliate, quelle cose lì. Infatti la dimostrazione ce la dà anche il Verona, famoso Verona, che ha vinto lo scudetto con gli scarti delle altre squadre. Perciò secondo me bisogna fare gruppo alle squadre, non bastano solo i campioni. È d'accordo con me? Sì, ma non è facile a grandi squadre, è più facile fare gruppo in provincia. Già non è facile fare gruppo nelle squadre di medio di calibro medio alto, negli squadroni è più difficile ancora, oppure ci si riesce per un certo periodo, oppure ci si può riuscire quando quando una grande squadra è in fase di crescita, di allestimento e di crescita, come capita per esempio alla Juventus adesso. Dopodiché in quelle situazioni allora si vedono anche i giovani inserirsi con grande disinvoltura. Ariaudo ieri sera all'Olimpico ha fatto un debutto eccellente, certamente per merito suo e delle sue qualità, ma anche per il fatto che questo è un momento in cui credo che alla Juve sia più difficile semmai rientrare per un senatore, ma non è difficile per un ragazzo debuttare, perché quello è lo spirito di questa fase. Poi magari domani non sarà più così. Marco da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno signor Granzini, tanti e complimenti alla trasmissione. No, tormentone cacà, forse ne ha parlato fin troppo, abbiamo fin tutti i giorni stiamo parlando di questo argomento. Io voglio fare una semplice considerazione, dico: un grande club, qual è il Milan, non può dipendere da un giocatore, cioè è ora di finirla. Questione morale, incidibilità, è un grande giocatore, ma io voglio ricordare una cosa a tutti: noi siamo rimasti orfani di Van Basten a soli 28 anni, il Milan ha continuato a vincere, abbiamo perso quello che era un eroe, quale Baresi, il Milan ha continuato a vincere. Io voglio dire, io al posto del Milan venderei questo giocatore, perché rischiamo di perderlo a giugno a meno soldi. Se il signor Galliani, diciamoci la verità, Berlusconi negli ultimi anni non investe più in giocatori, prende tutti i grandi stelle a fine carriera, vedasi Shevchenko, Ronaldinho, Beckham. Se questi 120 milioni di euro veramente vengono messi sul mercato e non si fa come con Oliveira e Shevchenko e si reinveste sulla squadra, io ritengo che può riniziare o almeno continuare un grande ciclo del Milan, a prescindere da un giocatore grande che possa essere Kakà. Grazie. Grazie a lei per il suo intervento. Questo rappresenta un punto di vista oggettivo, cioè, credo che intanto credo rappresenti il punto di vista del Milan come società, o perlomeno a maggioranza. Io ho letto e ho ascoltato in questi giorni le dichiarazioni dei responsabili, a cominciare da Galliani, ma mi sembra siano oggettivamente condivisibili gli stati d'animo che c'ha e che ci hanno raccontato, perché in effetti si balla tra l'una e l'altra valutazione. Lei ha ben rappresentato un tipo di ragionamento, poi evidentemente a fronte di questo ci sono anche gli altri. Io credo, posso sbagliare, ma credo che se c'è un margine, no? E il margine potrebbe esserci perché, per esempio, leggo da un'agenzia che Galliani da non molto ha lasciato via Turati per andare ad Arcore, dove incontrerà Berlusconi, e probabilmente verrà decisa in maniera definitiva la linea del Milan, poi che non vuol dire poi che verrà siglato l'affare, ma verrà deciso la linea della società. Io credo, e non penso di sbagliare, che qualcosina abbia anche cambiato nella valutazione complessiva dell'affare, abbia anche cambiato la sconfitta dell'Inter ieri a Bergamo, perché altro era ritrovarsi alla vigilia di questo turno in cui tutte e tre le squadre di testa avevano ostacoli abbastanza alti. Poi il Milan, a parità di ostacoli alti, la Fiorentina ce l'aveva in casa, le altre due fuori, ma insomma l'Atalanta mi pare abbia fatto 22 punti su 27 in casa, che non mi sembrano pochissimi. La Lazio in casa ha fatto bene, e comunque quest'anno è una squadra che sta andando, rispetto all'anno scorso, più forte, e quindi insomma i 6 punti di distacco che aveva l'Inter, i 4 punti di distacco che aveva l'Inter e i 9 che aveva il Milan sembravano, non dico campionato chiuso, ma insomma per il Milan erano indubbiamente. Adesso il Milan è nettamente più vicino sia all'Inter che alla Juventus, e c'è un intero girone di ritorno da giocare. Sì, che io credo che questo qualcosina possa aver cambiato o possa ancora cambiare nelle riflessioni complessive che vengono fatte in queste ore, penso. Provincia di Torino, Paolo. Eccomi qua, buongiorno signor. La ringrazio di darmi questa possibilità, perché siamo spinti da questo terribile momento del Torino. Volevo fare un appello ad abbassare la radio. La sua opinione, che noi siamo convinti che il Torino non ce la farà per grosse carenze tecniche e atletiche. Allora approfitto, da avendo altra possibilità, di fare un appello al presidente del Torino, cioè non spendere soldi inutilmente, tanto in giro non c'è nulla. Cercare di creare e migliorare sempre più il settore giovanile, la tifoseria non l'abbandonerà, E questi sono, diciamo, è la manifestazione dei nostri sentimenti attualmente. Beh, certamente, siamo... certamente abbastanza controcorrente, Paolo, il suo intervento lo concludo perché c'era una ricezione pessima e disturbata. Non credo che lei possa rappresentare in questo momento la maggioranza dei tifosi, magari la rappresentasse. Perché così andrebbero accettate le annate storte che si possono concludere nel modo peggiore. Ripeto, mi avvalari da intervento una mosca bianca, non certamente maggioritaria, nell'ambito di una tifoseria. Facciamo in tempo ancora ad ascoltare Carlo da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Dica. Abbasso la radio. Sì. No, il tormentone che ha, giustamente, io volevo lasciarmi un attimino all'ascoltatore di prima, che ha ragione. Le squadre vincono, hanno dimostrato anche la Juve con Zidane, tutto quanto, che vincono anche senza campioni, se la squadra è fatta con criteri, insomma, se la società è seria. Detto questo, dico che le società di calcio al giorno d'oggi sono delle società per azioni. Di conseguenza, se un Manchester, se un arabo che dà tutti questi soldi, ma questi glielo danno sicuramente perché una società deve dare profitto, quindi Berlusconi oltretutto sappiamo chi è, questo non se lo fa scappare, giustamente Zenga ieri ha detto lo prendo io in spalla e lo porto a Manchester, indipendentemente poi che sia lui il giocatore a voler andare lì, perché il Manchester in effetti non è una squadra da quando ci sono i soldi, credo che una società prima di tutto questo credo che sia un ragionamento valido. Io sono più su questa linea che non sull'altra, ma non al 31 gennaio. Cioè io trovo inammissibile che a metà anno si spacchi una stagione per riaprire un mercato per un mese, perché insomma io le squadre bloccate per 10 anni no, ma le squadre bloccate per 8 mesi forse si potrebbe anche, salvo comprovati e gravissimi infortuni magari. A metà stagione non sono d'accordo. Ho sotto mano la Free Press del Pomeridiana, il gratuito Pomeridiano di Roma e Milano del sole 24 ore, che si chiama 24 minuti e che dedica ovviamente la sua pagina sportiva alle due vicende che stanno polarizzando l'attenzione. Allora, il titolo principale è Moratti bacchetta Mourinho, la frase testuale del presidente è ha deciso tutto lui, l'Inter ha giocato male. E pare che Moratti si riferisca, anzi leggo testualmente, Moratti fa tutte le scelte che vuole e noi le avaliamo, e se queste dovessero essere scuse non sono accampabili, riferito alla frase secondo cui qualcuno aveva interpretato che Mourinho preferirebbe puntare sui giovani della società invece che gli impone o comunque gli suggerisce gli over 30. Quanto al modo in cui è stata gestita la sosta invernale, ha deciso tutto Mourinho, ha sottolineato ancora Moratti. Invece, certamente più curioso e più divertente, il prospetto che 24 minuti, ripeto, dedica ai guadagni di Kakà, agli ipotetici guadagni, perché ancora l'affare non è fatto, al Manchester City. Intanto il titolo del servizio dice che il dopo Kakà potrebbe chiamarsi Ribéry, perché c'è, secondo il quotidiano francese Le Parisien, una precisa offerta, pre-offerta del Milan per il fantasista del Bayern Monaco. Dopodiché, con lo stipendio del Manchester City, Kakà guadagnerebbe 28 euro al minuto, 1700 euro all'ora, 41.000 euro al giorno, 287.000 euro alla settimana. E allora si è divertito 24 minuti a fare questa tabella in cui ogni minuto Kakà potrebbe comprarsi un lettore MP3, ogni ora con 1700 euro un televisore a plasma 50 pollici, ogni giorno con 41.000 euro un fuoristrada di una certa marca e ogni settimana con 287.000 euro un bilocale in una grande città italiana. Il ragazzo si sta macerando e ha ovviamente tutta la comprensione delle popolazioni. Se è vero che mi arriva una mail firmata Davide da Modena e dice se Kakà si muoverà per soldi è perché potrà fare più beneficenza, più che per tenersi in tasca 5-6 milioni di euro in più, la risata è perché di là dal vetro Rudy è esploso in un'esclamazione politicamente non correttissima nei confronti non tanto del povero Kakà quanto forse del povero Davide da Modena che ha scritto questa fregnaccia terrificante. Antonio, provincia di Roma, buongiorno. Pronto? Dica Antonio. Sì. Buongiorno. Giorno. Senta, io se possibile esco un po' fuori dal coro. Esca. Il problema e il tormentone, insomma, Cacà, secondo me mette in evidenza la grande questione del calcio di oggi, che è diventato un vero, diciamo, luogo dove si fa business, dove i soldi diventano, diciamo, la leva fondamentale del potere. Allora io penso che noi oggi dobbiamo mettere all'ordine del giorno una questione a livello europeo, ed è quella degli ingaggi, del tetto degli ingaggi, è quella di poter regolamentare meglio questo tipo di operazioni, perché il radioascoltatore che ha chiamato da Bergamo, uno dei primi, e che ha detto che non si discute più dei bellissimi gol dei giovani al bar dello sport, ma si discute solo di questo, ha detto una cosa sacrosanta, e questo è il sintomo della grave malattia che noi viviamo. Ecco, volevo sapere cosa ne pensa di questo. Grazie. Penso che sarebbe un buon rimedio, una buona soluzione, ma penso anche che sia discretamente inapplicabile quello che lei propone. Altro è un serio controllo sui bilanci delle società. L'UEFA ci sta provando in maniera che non possa arrivare appunto il primo, ma non tanto il primo sceicco a cosa, ma che non si possano fare debiti e poi vincere le coppe campioni come sta capitando con l'inglese in questi anni. Però insomma un controllo addirittura sugli acquisti io penso che non sia esattamente dietro l'angolo. Sergio, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno. Dica. Credo che nonostante questa cascata di euro un grande campione come Kakà non abbia per niente intenzione di andare nella squadra sfigata di Manchester, e più che altro è la società che forse ha bisogno di un po' di euro per rifarsi difesa, centrocampo e tutto il resto. Questa è un'altra interpretazione. Non posso dire un'altra cosa? Sì, la dica. Recitare un intervento del presidente del Milan che mi ha fatto molto, molto ridere al telegiornale. Gli chiedevano della questione in Medio Oriente, lui era in Sardegna in vacanza ovviamente, e lui dopo un po' che ha parlato con questo tono molto serio del Medio Oriente, della guerra, ha incominciato a parlare di Kakà. È solo questo voglio dire. Arrivederci. Arrivederci a lei, Sergio, ma non vedo dove stia lo stupore, se è per quello. Io credo in effetti che questo sia un altro dei perché questo affare è così complesso e qualunque soluzione alla fine venga adottata sarà in ogni caso traumatica, ma proprio perché può essere visto oggettivamente da tante angolazioni e ciascuno di loro più che fondata, più che con un senso comune. Tocca a Marco da Venezia, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Ascolta, parlo dal presupposto che a storia di Kakà, vabbè, è a livello di soldi, che uno faccia quello che vuole, vendere, comprare, che ognuno faccia quello che vuole, se una squadra ce n'ha, vai a che li spende, se vuole vendere, lascia che vendi. Mi domando soltanto, ma è possibile che nel campionato italiano tutti sti stranieri e non diamo spazio a sti caspiti di giovani nostri? Che vogliono vendere Kakà? Vendetelo. Volete comprare proprio Gifo? Compratelo. A me non mi interessa niente, ma i giovani nostri dove sono? Quando è che li mettiamo davanti? Ma ce n'è anche di giovani nostri, tant'è vero che ci sono tanti stranieri, non c'è dubbio, però Marco non è che possiamo tornare al protezionismo più bieco, no? Ormai viviamo in un mercato, in un villaggio globale, questo vale per tutto, vale anche per il calcio. E io non la metterei tanto sul piano della rappresentanza, cioè della proporzione, la metterei sul piano del rendimento. Questo è diverso, allora, perché l'esempio della Juventus mi sembra molto significativo. Io non vorrei che la parola asino suonasse a cosa, perché è detta, ma insomma il proverbio dice che è meglio un asino vivo di un dottore morto. Qualche asino la Juventus in squadra ce l'ha attualmente, solo che non solo sono vivi, ma godono di una salute eccezionale, corrono come delle schegge, hanno voglia di crescere, di imparare, di diventare a loro volta campioni, e ho l'impressione che siano meglio di alcuni dottori morti, a tratti anche nella stessa squadra, ma soprattutto di tanti altri dottori morti che ci sono nella concorrenza. Io credo che vedere giocare Marchisio o vedere giocare De Ceglie sia leggermente più divertente che vedere giocare Beckham, però naturalmente questa è una mia opinione. Alessandro da Modena, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Dica. Volevo dire tre cose velocissime. Sì. Vabbè, intanto sono un tifoso milanista, ma non mi dilungo più di tanto sul discorso Kakà, altrimenti ne verrebbero fuori qualcosa di troppo lungo. Allora, una cosa voglio sfatare, una cosa che ho sentito in settimana, ma anche un po' più indietro, da anche voci autorevoli, il discorso che dei portieri in Italia, che dopo Buffon c'è il vuoto, ma io ogni domenica vedo comunque prestazioni molto convincenti da parte di Amelia, Marchetti, vabbè, Antognoli che è un pochino più attempato, però anche in ottica nazionale, Marchetti, Amelia, insomma, poi ci sono, adesso non so che fine abbiano fatto i vari De Santis, compagnia varia. Non buonissima. Poi il discorso sul, che ho sentito sempre in settimana scorsa, che seguo molto spesso la sua trasmissione, il discorso del continuo confronto ogni volta che c'è un minimo di possibilità tra calcio inglese e calcio italiano. Io continuo a sostenere che è impossibile fare un confronto di questo tipo, perché sono proprio due parti, mentalità diverse. Comunque, vabbè, vedo che ancora c'è molta gente che dice il calcio inglese è meglio, vabbè. E poi l'ultima cosa, vabbè, su Kakà, che io invece sono in completo disaccordo con quello che hanno detto i due radioascoltatori precedenti, soprattutto il primo, perché lui diceva abbiamo perso Franco Baresi, ma sì, io non mi ricordo che è stato perso, ma lui si è ritirato dopo un'onoratissima carriera. Stesso discorso per Van Basten, che non è stato venduto, ma si è ritirato purtroppo per tutto quello che... Sì, però Alessandro, l'ascoltatore prima sosteneva semplicemente, e anche più in sintesi direi, se posso permettermi, che il mondo va avanti, cioè che il calcio è sempre continuato, e il Milan è sopravvissuto al ritiro di Schiaffino, o alla cessione di Schiaffino, poi al ritiro di Rivera, e poi a quello di Van Basten, poi a quello di Baresi, e sopravviverebbe anche all'abbandono di Kakà. Io dico a metà stagione e a 6 punti solo dalla vetta, in maniera più traumatica rispetto ad allora, perché secondo me le grandi operazioni sarebbe più corretto, sia per chi le fa in acquisto che per chi le fa in cessione, farle a bocce ferme, non a metà stagione. Tutto lì, dal mio punto di vista. Enrico, provincia di Chieti, buongiorno. Peccato che al mio predecessore gli sia sfuggito Abbiati tra i portieri che ha citato, sì. Non ha citato Abbiati. E poi su Kakà, se tifosi illustrissimi come Armani, Emilio Bianchi, anche il direttore di Milan Channel si è ribellato. Abbatandone ha detto appena venderanno Kakà io non sarò più milanista, quindi vuol dire che la dirigenza sta sbagliando questo. Sì, vuol dire anche che poi li voglio andare a prendere uno per uno questi, no? Il giorno che non ci sia più Kakà e che magari ne arrivi uno più forte, o che il Milan rifaccia la squadra, e poi ne riparliamo, fermo restando che ciascuno evidentemente ha il diritto al dissenso, persino Milan Channel a quanto pare, e su questo ci andrei un pochino più morbido e magari più perplesso. Simpatica, scrive un ascoltatore, la tabellina di 24 minuti. Beh, allora, visto che stiamo andando in crescendo, poi vi sottopongo quella che ha pubblicato stamane il Sole 24 Ore, perché mi tenevo questa chicca per il finale, non si sa mai che qualcuno magari la citasse in precedenza. Prima di questo comunque, e cioè subito, la data di oggi, che cosa è successo nella storia dello sport, il 19 gennaio. Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 gennaio 1984. A Città del Messico, Francesco Moser fissa a 50 km e 808 metri il nuovo record mondiale dell'ora. Crolla così lo storico primato di 49 km e 431 metri stabilito da Eddy Merckx il 29 ottobre del 72. Moser firma la sua impresa in sella a una bici avveniristica, dotata di ruote senza raggi, dette lenticolari. 4 giorni dopo, il campione trentino stupirà di nuovo il mondo, spostando il limite dell'ora a 51 km e 151 metri. Il record di Moser resisterà fino al 1993, quando l'inglese Graham O'Brien lo porterà a 51 km e 596 metri. Qualche messaggio spiritoso ogni tanto sull'affare di questi giorni arriva. Per ora vi stravince Paolo da Modena, che dice: ma lo sceicco non si potrebbe comprare Quaresma? Che in effetti è una domanda che uno legittimamente si può anche fare. Un ascoltatore e poi quella tabella del Sole 24 Ore. Fausto da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. buongiorno signor Garanzini. Io stanotte mi sono immaginato una metafora, tipo un sentiero neanche troppo lungo, e alla fine c'è Ferguson che scava una buca. Lei come la vede? Tutto qua. No, Fausto, lei se la sarà preparata per tempo. Io sinceramente messo così all'improvviso faccio fatica a capirlo. Non so se c'entra il City, non so se c'entra l'Inter, non so se c'entra il Milan. Ho appena letto un messaggio spiritoso, sinceramente mi aspettavo di meglio. Senta un po', senta anche lei questa invece. Prima pagina, copertina di oggi, Le Sole 24 Ore. Allora, Marco Bellinazzo, che come sapete è un nostro collaboratore puntuale e affezionato, e che in settimana tornerà su questo e su altri argomenti, vi anticipo soltanto questo. Ha studiato i parametri economici del dopoguerra, e in base a questi parametri ha stabilito che se Mourinho guadagna oggi come guadagna 9 milioni di euro, ammesso che non siano di più, come un giorno a lui stesso è scappato in maniera polemica ai primi tempi, quando ancora El Ganassava, se Mourinho oggi guadagna 9 milioni di euro, in proporzione Nereo Rocco, no, l'allenatore storico del Milan degli anni 60, guadagnerebbe oggi 130.000 euro. E cioè il milione al mese che nel 1963 Rocco percepiva, più i premi, per allenare il Milan. Milan che vinse campionato nel 62 e Coppa dei Campioni nel 63, non stiamo parlando del Peretola, quell'allenatore oggi guadagnerebbe, attualizzati, indicizzati, guadagnerebbe 130.000 euro l'anno. Mourinho guadagna 9 miliardi, il che significa che se questo è un parametro di paragone e di allineamento, oggi un tecnico come Mourinho guadagna 70 volte, 70, quello che Rocco guadagnava allora. Se qualcuno che ha vissuto anche il calcio di allora pensa, come penso io, che quello di oggi sia un manicomio, forse grazie a queste tabelle è un po' più autorizzato a pensarlo. Nei prossimi giorni scenderemo nel dettaglio a proposito anche di giocatori, non soltanto di allenatori. Danilo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno a tutti. Io ho proprio vissuto quel periodo lì, quindi posso parlare con voce in capitolo. Sì. E vorrei dire una cosa su questo discorso di Kakà, che sento che le persone che ascoltano non l'hanno puntualizzato. E cioè, io parlo di crisi, e quando parlo di crisi parlo di una crisi che verrà e che sarà molto ma molto più pesante di quanto tutti quanti noi non si possa pensare. E questa crisi che il signor Berlusconi vuole far passare così come presidente, forse credo che lui la sappia e la conosca molto bene quando arriverà. E allora, quando arriverà questa crisi, signori miei, gli sponsor, quelli che tirano fuori il grano per far fare le trasmissioni e per far prendere i giocatori e per far tutto quello che stiamo vedendo noi adesso che fanno, non ci saranno. Allora, e se vendessimo adesso Kakà, così abbiamo ancora il tempo per fare certo business, cioè o meglio per intascare dei quattrini, perché fra poco ho la vaga impressione che saranno cose molto ma molto spiacevoli. Cosa ne pensi di questo? Penso che è un'altra delle ipotesi che sono sul tappeto, e credo anche che il Milan qualcosina abbia lasciato intendere anche da questo punto di vista, poi certo non nei termini in cui li ha introdotti lei, tantomeno da parte politica, ma insomma nel groviglio, anche sull'altro fronte, Galliani ha già detto che oggi il mondo, usando un'immagine un po' tanto universale, comunque ha detto il mondo oggi vale la metà di quello che valeva un anno fa, e quindi mi pare che già abbia introdotto questo concetto di sano realismo, no? di fronte, poi lei ne sta parlando con una catastrofe, magari proprio così non sarà, certo di grandi illusioni credo non sia il caso di farsene, ci si può illudere tutto al più che uno sceicco stupido sia sempre poi ancora in circolazione, insomma, no? Perché gli sceicchi forse sono quelli che l'ondata della crisi la patiscono leggermente più tardi degli altri, o no? Da Bergamo, Fabrizio, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Come sta, bene? Ma guardi, non le dico. Dica Fabrizio. È seduto? Fabrizio. Ascolti, il discorso è molto semplice. Atalanta. Noi atalantini siamo abituati a vendere i nostri cacà tutti gli anni. I nostri cacà, i nostri Robinho. E poi se ci fosse uno sceicco che viene a prendere l'Atalanta, non non penso faccia schifo a nessuno a Bergamo. C'è un impianto che funziona, arriva uno sceicco, mette i soldi, vuole comprare un giocatore di un certo livello, lo compra, e penso che non ci sia niente che di strano. Però volevo dire anche una cosa per Cacà. È possibile che andate comunque una società storica, non ci sia un progetto dietro, e non sia stato detto Cacà, guarda che c'è questo progetto, vogliamo portare questa squadra a certi livelli. È possibile che Cacà ci faccia un pensiero anche a questo. Sono i soldi che fanno schifo, i soldi ci fanno pensare a ragionamenti che vanno al di là di, non so, la definizione. Secondo me, che sono dell'Atalanta, ci potrebbe essere anche questo ragionamento. Perché ragionano da una squadra provinciale, quale è il Manchester City, anche la grande città Manchester. Vabbè, insomma, mi ha detto di mettermi seduto, insomma, se anche stavo in piedi credo che avrei resistito a grandi linee a questo intervento. Qualche riflessione era saggia, per carità, non ho colto nulla di rivoluzionario comunque nel suo intervento. Roberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, io volevo uscire un attimo dalla telenovela Cacà. Io volevo dire che ieri ho guardato Catania-Bologna, e ho notato una piccola cosa, che ieri c'era molta meno gente a bordo campo e stranamente il Catania ha perso. Poi dopo volevo dire un'altra cosa, ecco, molti milanisti dicono che... La prima, Roberto, mi scusi, la prima andava bene fino a metà, no? Poi lo stranamente il Catania ha perso, io non credo che possa essere una conseguenza diretta della prima parte, no? Perché se no messa così sarebbe un po' pesantina. La seconda cosa? La seconda volevo dire che i milanisti riguardo al caso Cacà dicono sempre, prendono a paragone la Juve nel caso Zidane. Nel caso Zidane fu Zidane a richiedere ripetutamente di essere ceduto. Quindi per me le cose sono leggermente diverse. La ringrazio. Sono nettamente diverse, Roberto, e su questo sono d'accordo, perché era Zidane che era un po' aveva tentazioni, era donna Zidane che se ne voleva andare da Torino, almeno così si disse allora, ma soprattutto era Zidane che voleva andare a giocare a Real Madrid, e quindi è leggermente diverso. Tra il Real Madrid di allora, che era quello degli Zidanes appunto e dei Pavones, cioè di un fuoriclasse all'anno su un telaio già di grande squadra, e il City di adesso, mi sembra ci sia passi una grande differenza, che è per l'appunto quella che rende abbastanza difficile accettare la scelta di Cacà, se poi davvero sarà questa. Ne riparliamo domani, temo anche nei giorni a venire. Grazie a Peter Bescapè in regia, Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.